24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra e benvenuti a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano in questa edizione il via libera della Germania ad un fondo salva stati più forte, poi il richiamo dell'Unione Europea che apre 6 procedure di infrazione per l'Italia, ma parliamo anche delle condanne emesse per una truffa all'Unione per le quote latte. In apertura dunque andiamo a Berlino, anche se di poco la Bundestag approva la linea della cancelliera Angela Merkel e rafforza lo strumento voluto per sostenere l'economia dei paesi europei in difficoltà. Un voto questo che rafforza anche il peso politico interno della cancelliera. Mit Nein haben gestimmt 85, Enthaltungen 3. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. È arrivato il sì anche del Parlamento tedesco. La Germania ha approvato l'ampliamento del Fondo Europeo Salva Stati. Una boccata d'ossigeno per l'Europa, ma soprattutto una rassicurazione per Angela Merkel. Se infatti il sì al rafforzamento da parte del Bundestag era considerato scontato, non altrettanto la tenuta della maggioranza, divisa sull'opportunità di continuare ad aiutare i paesi in crisi. Alla cancelliera tedesca servivano 311 voti per evitare che la proposta passasse grazie ai voti dell'opposizione. Ne ha ottenuti 315. Seppur sul filo di lana, la Merkel ha dunque tirato un sospiro di sollievo. La sua coalizione, chiamata a dimostrare coesione in un momento cruciale per le sorti della moneta unica, non ha tradito. Alla fine i voti favorevoli sono stati 523, 85 quelli contrari. Con uno scrutinio che va contro il sentimento comune dell'opinione pubblica tedesca, la Germania diventa il decimo paese ad approvare la proposta formulata nel vertice europeo del 21 luglio. Prevede l'ampliamento della dotazione del fondo da 250 a 440 miliardi di euro, la possibilità di acquistare titoli di Stato europei sul mercato secondario e di mettere linee di credito a disposizione dei paesi in difficoltà. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il via libera tedesco era cruciale per il proseguimento degli aiuti alla Grecia. Contemporaneamente ad Atene i dipendenti pubblici hanno occupato gli edifici governativi per protesta contro i tagli, e questo mentre arrivavano i tecnici della Troica, della Commissione Europea, della BCE e del Fondo Monetario Internazionale, le cui valutazioni saranno determinanti per stabilire se i partner dell'area euro verseranno nuovi aiuti. E il voto tedesco, insieme agli ultimi dati americani sul PIL e sulla disoccupazione migliori delle attese, hanno dato energia alle borse europee. Le due principali banche italiane trainano la corsa di Piazza Affari, tornata a galoppare dopo una seduta di stop. La positiva asta dei titoli del Tesoro italiani e soprattutto il via libera tedesco all'ampliamento del Fondo Europeo Salva Stati hanno messo le ali soprattutto al comparto finanziario, con bancari e assicurativi in luce in tutta Europa. Sul FTSE MIB appunto, Unicredit e Intesa San Paolo hanno guadagnato entrambi il 6%, mentre Popolare di Milano è salita di un altro 4% nei giorni caldi delle indiscrezioni su nuovi investitori pronti a sottoscrivere l'aumento di capitale da 800 milioni di euro. Brutto invece il tonfo di Safilo. Il marchio veneto degli occhiali ha ceduto quasi il 9%. Il rinnovo della licenza con Armani è a rischio e potrebbe penalizzare fortemente i ricavi del gruppo. Da Radio Corp per Radio 24, Andrea Fontana. Italia maglia nera in Europa per numero di infrazioni a suo carico aperte. Sentiamo. Dai rifiuti alla pesca, dall'energia agli appalti pubblici, dai trasporti alla gestione dei servizi finanziari. Una strigliata a tutto campo per l'Italia, che si traduce in 6 procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea. Nel mirino è soprattutto l'emergenza rifiuti in Campania. Il nostro paese avrà 2 mesi di tempo per regolarne gestione e smaltimento. 2 mesi scaduti i quali scatteranno multe anche molto pesanti. È da mesi che il commissario UE all'ambiente, Janez Potocnik, mette in guardia sul mancato avvio di un corretto ciclo dei rifiuti con gravi pericoli per la salute ambientale. Il 4 marzo 2010 infatti l'Italia subì la prima condanna della Corte di Giustizia UE per non aver adottato tutte le misure necessarie. Ma nel mirino della Commissione ci sono anche i trasporti, con l'obbligo, entro 2 mesi, di introdurre un sistema di classificazione del rischio in merito al rispetto del periodo di guida, delle interruzioni e delle pause dei conducenti. E ancora la pesca, con l'obbligo sempre entro 2 mesi di risolvere il problema dell'uso illegale delle reti da porto posta nel Mediterraneo e l'energia, con l'obbligo di applicare le norme europee in materia di efficienza energetica degli edifici. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sulla questione rifiuti, per ripulire Napoli dovrebbero presto ripartire dalla Campania verso l'Olanda navi cariche di immondizia. Il punto delle misure prese nelle parole del sindaco partenopeo Luigi De Magistris, intervistato da Barbara D'Amico. Siamo usciti dal tunnel e stiamo consolidando la definitiva uscita dall'emergenza con la differenziata e con la partenza delle navi verso l'estero. Noi abbiamo completato tutto l'iter del comune. In settimana trasmetteremo tutto alla regione, c'è bisogno di un'autorizzazione regionale e poi attendiamo l'autorizzazione dei paesi stranieri. Quindi se questo accade nei tempi che ci hanno detto, insomma ci siamo praticamente. Tra Porta a Porta, che è partita lunedì col primo quartiere, più le isole mobili ecologiche, più le navi, più l'impiantistica che stiamo migliorando, si potrà dire che insomma nel giro poi di 3-4 mesi noi abbiamo lasciato l'emergenza definitivamente alle spalle. E ora andiamo a Milano, dove si è concluso il processo per una truffa ai danni dell'Unione Europea sulle quote latte. Risultato: 16 condanne e un maxi risarcimento. Non è bastato ad Alessio Crippa il soprannome di Robin Hood dei produttori di latte. Il Tribunale di Milano lo ha condannato a 5 anni e 6 mesi. Insieme a lui, altri 15 tra produttori e allevatori. Le accuse, a vario titolo, peculato e truffa. Al centro della vicenda un raggiro milionario contro le normative europee sulle quote latte. Protagoniste due cooperative, la Lombarda di Crippa e la Latteria di Milano di Gianluca Paganelli, condannato a 2 anni e mezzo. Le quali avrebbero dovuto scorporare dal denaro ricevuto per le quote di latte prodotte in eccesso il prelievo supplementare e poi versarlo alla AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Ma a intascarsi quelle cifre sarebbero stati invece i produttori. L'indagine della Finanza, partita a fine 2008, nel 2009 aveva portato Crippa e Paganelli agli arresti domiciliari. Risultato: un danno economico di 100 milioni di euro per la Corte, che ha dunque condannato gli imputati a un risarcimento di 30 milioni di euro. In Italia si fanno i processi solo per chi a casa propria porta le donne e per chi munge le vacche e procura il latte, ha commentato a caldo Crippa. Soddisfatte Coldiretti e Confagricoltura, che dicono: giustizia è fatta, tutelati coloro che operano nella legalità. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo ora dell'internazionalizzazione della scuola italiana, che è ferma ad un terzo del cammino. L'indice elaborato dall'Ipsos è del 37%, infatti, come nel 2009, ma sono stati fatti anche molti passi in avanti. È quanto emerge dal terzo rapporto dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione realizzato da Ipsos per le fondazioni Intercultura e Telecom Italia. Sentiamo il commento del presidente Ipsos, Nando Pagnoncelli. La metà delle scuole ha avviato progetti internazionali, oltre un terzo non fa nulla da questo punto di vista. È interessante osservare che da un lato il 30% delle scuole ha nel proprio ambito almeno uno studente che sta facendo un'esperienza di mobilità all'estero. Qui abbiamo ancora delle differenze significative tra nord e sud, in particolare il nord-est ha dei livelli di internazionalizzazione più elevati. I licei hanno un ruolo preponderante, ma grande crescita abbiamo osservato degli istituti professionali. Ora a Dublino la Cattolica Irlanda si prepara alle presidenziali, non senza qualche sorpresa. Tra i 7 candidati a diventare il 9° presidente della Repubblica d'Irlanda spuntano novità dell'ultima ora. Potrebbe essere il primo presidente dichiaratamente gay il senatore David Norris, attivista per i diritti degli omosessuali, aggiuntosi con l'ex pop star Dana Rosemary Scanlon, conosciuta semplicemente come Dana, il giorno prima della scadenza dei termini. Il 67enne David Norris, senatore studioso di James Joyce, leader della campagna che portò a decriminalizzare l'omosessualità nel 93, è in testa nei sondaggi. Aveva ritirato la candidatura d'agosto dopo le rivelazioni sul suo coinvolgimento in un caso di violenza in Israele risalente agli anni 90, Norris aveva chiesto clemenza per il suo ex compagno, accusato di abusi nei confronti di un ragazzino palestinese. I 7 candidati sono in corsa per succedere a Mary McAleese, la seconda donna a ricoprire il ruolo, e il primo presidente nato in Irlanda del Nord, a Belfast. Oggi la Cattolica Irlanda potrebbe andare oltre. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Infine andiamo in Africa orientale, dove il raccolto è a rischio siccità. Dopo la Somalia e il nord del Kenya, anche il neonato stato del Sud Sudan lancia l'allarme. Instabilità e scontri tra eserciti lungo i confini settentrionali, incertezza delle piogge e dei raccolti, massiccio ritorno della popolazione verso i villaggi d'origine per effetto dell'indipendenza da poco conquistata. L'ONU aggiunge il Sud Sudan alla lista dei paesi a rischio carestia dell'Africa orientale, accanto a Somalia, Etiopia e nord del Kenya. Il raccolto in questa settimana che chiude il ciclo delle piogge non basterà. Secondo la FAO, le 900.000 persone colpite da grave insicurezza alimentare quest'anno saliranno a 1.200.000 nel prossimo.